sempre scolpito Dio nella mente da quando hai tolto quel peso da me. Con gioia i miei occhi piangono, i labbri miei ti adorano, tutto il mio cuore e lode per te. Sono libero, libero, libero nel tuo spirito e il tuo spirito in me, la mia gioia in te, nuova vita te in me, per la croce sono libero in te. E il tuo spirito in me, la mia gioia in te, nuova vita te in me, per la croce sono libero in te. Per sempre scolpito Dio nella mente da quando hai tolto quel peso da me. Con gioia i miei occhi piangono, i labbri miei ti adorano, tutto il mio cuore e lode per te. E il tuo spirito in me, la mia gioia.